Job 24. Bentrovati a Job 24. Oggi suggeriamo agli studenti, ai laureandi, ai giovani lavoratori una nuova figura che è destinata a farsi largo, quella del broker tecnologico, colui cioè che è in grado di far comunicare il mondo della ricerca con quello delle imprese. Sappiamo ormai quanto sia importante portare l'innovazione tecnologica all'interno delle aziende. Però nel mondo della ricerca si sa, si parla di chimica, fisica, matematica, di ingegneria, e in quello del business si parla di prodotti, mercati, entrate e così via. Quindi è spesso difficile che i due mondi riescano ad intendersi, ed è qui che arriva il broker tecnologico, un'attività intrapresa ormai da alcuni anni dal Parco Scientifico Area di Trieste. E proprio a Trieste Stefano Totoro ha intervistato Steven Taylor, il direttore del servizio di trasferimento. Cerchiamo di aiutare il mondo della ricerca ad articolare quello che è l'offerta loro, quello che sono riusciti a fare, scoprire, inventare, che potrebbero servire al mondo degli affari, al mondo di business, mentre cerchiamo anche di aiutare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, di articolare la domanda che hanno loro, le esigenze che hanno loro, per migliorare i loro prodotti, processi e servizi per i loro clienti, sfruttando le tecnologie, le innovazioni che vengono dal mondo della ricerca. In che modo si creano queste professionalità? Che tipo di preparazione bisogna avere? Ma per fare l'interprete, diciamo, tra questi due mondi, ci vuole una persona che capisce ambedue i linguaggi. Non basta mettere di mezzo un altro ricercatore o un altro imprenditore, ma bisogna avere qualcuno che è ben formato in ambedue i linguaggi. Quindi deve essere una persona con un certo livello accademico. Di solito noi assumiamo persone con la laurea quinquennale. E poi bisogna avere anche esperienza del mondo del lavoro, del mondo dell'azienda. Non è necessariamente richiesta che sia una laurea scientifica. Va anche detto che se noi scegliamo una persona con una laurea molto specifica, può anche essere un limite, può creare una figura che sì, può parlare con quel dipartimento dell'università, ma non altre. Quindi dobbiamo cercare persone che siano in grado di capire anche una gamma di tecnologie, ma che abbiano minimo una conoscenza del metodo scientifico. Tra l'altro facciamo anche corsi di formazione. Noi abbiamo sviluppato corsi mirato alla figura di broker tecnologico, che facciamo per creare più conoscenza di questo ruolo, ma ovviamente questo ha anche un altro scopo, che crea persone che sono veramente le persone adatte al ruolo, se noi vogliamo assumere, come è il caso adesso, delle figure nuove per entrare nel servizio trasferimento tecnologico. E infatti da questa esperienza, grazie alla quale il Parco Scientifico Tecnologico Area di Trieste ha creato nuove figure professionali che non esistevano sul mercato, è nato un master in collaborazione con il Politecnico di Milano. Sentiamo Giuseppe Colpani, il direttore generale di Area. Dopo il primo anno si acquisisce un titolo che è esperto di brokeraggio tecnologico, e dopo il secondo anno si acquisisce proprio il titolo di master che viene riconosciuto dall'Università, dal Politecnico di Milano. Un master che è articolato in due anni ed è fatto in due anni anche perché diciamo è stato dimensionato nei confronti delle persone che svolgono un'attività professionale dentro agenzie di trasferimento tecnologico, centri di ricerca, dentro anche le università che si occupano di liaison office, dentro le imprese che si occupano anche lì di trasferimento, e quindi doveva essere per forza temporalmente dimensionato in modo che anche un lavoratore possa seguirlo. E quindi abbiamo pensato di organizzare due o tre giorni al mese. Le lezioni si svolgono sia a Milano sia in area di ricerca, e la novità, diciamo, rispetto ai master tradizionali è che accanto, diciamo così, alla formazione di tipo teorico e di tipo tecnico professionale, esiste anche una formazione sul campo fatta con strutture che questa professione l'hanno sviluppata e ne hanno dato i risultati, insomma, ecco. Era Giuseppe Colpani, direttore generale del Parco Scientifico Tecnologico Area di Trieste, intervistato da Stefano Totoro. Segnalo il sito attraverso il quale avere tutte le informazioni su questa figura, il broker tecnologico, e anche sui corsi di formazione, che è www.area.trieste.it. Invece il nostro di sito attraverso il quale ti ascoltare questa e altre puntate è www.radio24.it. È davvero tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. I hold, I hold, I hold.